storia e la memoria di Dino Pesole. Del drammatico biennio 1943-1945, quando l'Italia si spaccò in due e visse l'esperienza della Repubblica di Salò, ultima incarnazione del regime fascista, mentre nel sud avanzavano le truppe degli alleati, si è scritto e letto molto. È uno dei periodi della storia nazionale che più di altri sono stati oggetto di attenta analisi e critica in sede storiografica. Non è però forse molto noto quel che accadde nel mondo dell'informazione, in particolare per il principale strumento di comunicazione e di propaganda dell'epoca, che era la radio. Ora, con la pubblicazione del libro di Gioacchino La Notte, Segnale radio, musica e propaganda radiofonica nell'Italia nazifascista 1943-1945, edito da Morlacchi, apprendiamo nuovi e interessanti particolari. Diamo il benvenuto al professor La Notte, che è docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. Buonasera e bentornato. Buonasera a lei, dottor Pesole, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Professor La Notte, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è già stato nostro ospite nel 2012 in occasione della pubblicazione del suo libro Il Quarto Fronte. La radio segue il governo. Con questa perentoria direttiva di Mussolini, anche la radiofonia nel delicato periodo della transizione 1943-45 si trova a riprodurre la scissione del paese in due tronconi. La Repubblica Sociale Italiana, che assorbe le IAR e parte del suo personale, e il Regno del Sud, da dove, sotto il controllo degli alleati, riprende l'attività delle stazioni antifasciste. Ma nel clima cupo che aleggia sul nord Italia, durante il periodo di Salò, la radio, oltre a veicolare informazioni, vuole essere anche fonte di svago, con i suoi programmi di intrattenimento e di musica. E le due dimensioni sono legate a doppio filo nella propaganda di guerra. Da queste premesse si sviluppa l'indagine del libro, che prende in considerazione il sistema radiofonico delle IAR RSI, canale ufficiale, stazioni parallele, false emittenti clandestine, singole testate dedicate a temi specifici dell'infopropaganda e radio collaborazioniste, e le significative esperienze di radiodiffusione partigiana, che cercano di opporsi al poderoso apparato nazifascista anche sul terreno della propaganda. In effetti l'esperienza della radio, in particolare dell'EIAR, offre un contributo di particolare rilievo alla conoscenza di quei drammatici 600 giorni di vita del nostro paese dopo l'8 settembre del 43, come mostra questo passaggio tratto dall'introduzione del suo libro, professor La Notte. Nel periodo che va dall'armistizio alla liberazione, lo spazio elettromagnetico sopra l'Italia divisa è percorso da segnali emessi da diverse radiotrasmittenti che non hanno obiettivi editoriali. Dalle stazioni partono e arrivano messaggi in chiaro o cifrati, comunicazioni sui lanci di armi e viveri, indicazioni per facilitare l'allestimento dei campi per l'atterraggio o il decollo degli aerei, segnalazioni su eventuali attracchi, richieste di materiale, modalità e particolari su spostamenti delle truppe nemiche. Ad avvalersi di questo prezioso strumento sono specialmente le forze di liberazione, per mantenere i contatti tra le diverse formazioni partigiane e in particolar modo per tenere i contatti con gli angloamericani. Questi ultimi, a loro volta, si servono di piccoli gruppi radiomobili che seguono gli spostamenti delle armate per fornire informazioni al nord o rilanciare i programmi delle stazioni dell'Italia liberata. Allora, professor La Notte, il suo libro di fatto si concentra su due aspetti prevalentemente. Da un lato il ruolo della propaganda della Repubblica di Salò attraverso la radio, dall'altro però il ruolo delle emittenti clandestine, è così? Due dimensioni quindi diverse, ma che contribuiscono a riempire la fonosfera del nord Italia in quei drammatici 600 giorni. Cioè la radio di Salò, senz'altro, col suo, diciamo, indotto, un apparato anche clandestino, come avete ben detto voi prima, e poi chi cerca coraggiosamente di contrapporsi, come Radio Cora di Firenze, una radio del Partito d'Azione, e soprattutto Radio Libertà, che è del Biellese, che è una radio a tutto tondo, con anche trasmissioni di intrattenimento, di posta, di comunicati, eccetera. Ecco, ma riuscivano queste radio clandestine, Radio Cora, Radio Libertà, a raggiungere come dire, il pubblico che si prefiggevano di raggiungere, o c'erano difficoltà, c'erano, immagino, anche problemi molto seri appunto di sicurezza. Certo, naturalmente l'efficacia rispetto all'apparato di Salò è molto ridotta, perché sono radio più deboli dal punto di vista della potenza, e soprattutto le condizioni di pericolo portano spesso a dover cambiare sede per il timore di rastrellamenti, e quindi in ogni caso hanno, come dire, un pubblico più selezionato. Cioè, la radio di Salò pretende di essere la radio nazionale, in un certo senso è un po' la metafora conoscitiva di tutta l'operazione della Repubblica Sociale Italiana, nel senso che il tentativo di costituirsi come Stato nazionale della RSI fallisce per diversi motivi: l'incapacità di darsi un esercito nazionale, eccetera, eccetera, ma fallisce anche perché la radio di quei 600 giorni non riesce a realizzare quel palinsesto variegato di taglio generalista che invece era tipico della radio degli anni 30. Mancano i programmi appealing, cioè come i Quattro Moschettieri, mancano le belle canzoni del tempo di guerra, e l'impostazione complessiva, insomma, non riesce a nascondere le reticenze, le menzogne, i deliri di un'epopea che oramai era prossima alla conclusione. Già, perché siamo agli epigoni. Siamo agli epigoni, lo ricordiamo, l'8 settembre del 1943, l'armistizio, l'Italia spaccata in due, ma già il 25 luglio c'era stato il colpo di Stato, di fatto, che aveva defenestrato Mussolini dal potere. Appunto, riesce in qualche modo a recuperare seppur un minimo margine di consenso attraverso l'utilizzo della propaganda Mussolini, oppure è destinato inevitabilmente, inesorabilmente, al fallimento questo tentativo? Ma è proprio, c'è un calo in tutti i settori, dottor Pesole, un calo nella produzione di programmi, nell'impiego di personale, nella produzione, nella vendita anche degli apparecchi, addirittura nella ripartizione degli spazi pubblicitari, il numero di abbonati. C'è da dire che molti a quel punto anche nel nord seguono la Radio Londra. Allora, le radio del sud, ne abbiamo già parlato proprio nel suo programma, hanno tutta la loro avventura specifica con l'intervento degli alleati, quindi con un nuovo modo di fare giornalismo, con anche una vivacità per quel musicale, per quello che riguarda diciamo un clima che poi sarà il giornalismo del dopoguerra e l'intrattenimento del dopoguerra. Il nord invece, con questo ancoraggio al passato, con questo richiamo continuo a quel tempo di guerra scandito oramai da diversi anni dalle stesse coordinate: propaganda, paura, fame, rastrellamenti, terrore, che tutti gli italiani sono desiderosi di lasciarsi alle spalle. E quindi pensi che in quei due anni, tra 43 e 45, non viene pubblicata una canzone? Le canzoni ne vengono pubblicate parecchie, perché la Cetra, che è la casa discografica che è agganciata a Leier, continua a produrre, ha un suo spazio, il famoso quarto d'ora Cetra quotidiano, suonato dalle orchestre più importanti, quella di Angelini e di Barzizza, che operano al nord, quindi ci sarebbero tutti gli elementi, eppure non viene prodotta una canzone che rimanga nella memoria. E in quel periodo sia al sud che al nord si recuperano le canzoni scritte prima del 43, e questo, diciamo, è significativo. Sono, diciamo, canzoni sopra le linee, nel senso che in un paese drammaticamente diviso in due il paesaggio poi si ricompone sorprendentemente quando ci si avvicina al modo di vivere, alla consuetudine, alla quotidianità della gente, quindi anche alle belle canzoni d'amore, ecco, quindi La strada nel bosco, Ma l'amore no, Tornerai, queste sono efficaci strumenti che hanno il compito, come, di collegare il nord occupato e il sud liberato. Sì, tutti elementi, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che sono emersi anche nel corso della presentazione del suo libro, che è avvenuta martedì scorso a Roma alla Casa della Memoria della Storia, sì, dove è stato apprezzato in particolare il contributo che il suo libro dà alla conoscenza di questo fenomeno, che, come dicevamo all'inizio, forse è di quelli meno battuti dalla storiografia tradizionale. Infatti, sì, è stata una bella presentazione, ci siamo avvalsi della, diciamo, lettura attenta e prestigiosa anche della professoressa Paola Carucci, che è la sovrintendente dell'archivio storico del Quirinale, che ha fatto un'esposizione talmente approfondita che insomma poi c'è stato bisogno di aggiungere poco altro. Per fortuna c'erano dei musicisti e quindi quelle famose canzoni di cui parlavamo sono state suonate. Abbiamo ascoltato anche dei materiali grazie a Stefano Pogelli, un tecnico della RAI. È stata sia una bella presentazione che ci ha permesso di riepilogare un po' le cose che stiamo dicendo anche ora. Infatti l'ultima cosa, abbiamo poco più di un minuto, professore, per chiederle appunto come è emerso durante la presentazione, in sostanza nel clima cupo che aleggia nel nord dell'Italia durante Salò, la radio si pone l'obiettivo di veicolare informazioni ma anche di essere fonte di svago, ma appunto infatti, a quello che lei diceva, questo è un obiettivo che è stato sostanzialmente mancato. Sì, ricollegandoci all'inizio della nostra chiacchierata, al ruolo poi delle radio partigiane, ecco lì invece troviamo uno sguardo verso il futuro, una vitalità. Cioè, Radio Libertà ha all'interno un maestro soprannominato Scat, un nome di battaglia, in realtà si chiamava Hans Stricker, un austriaco che poi era rimasto nel nord a suonare e quindi era finito poi tra le fila del partigianato. Hans Stricker mette in piedi una vera orchestrina e da quella radio si suonano canzoni, le canzoni partigiane, si esegue dal vivo ed è molto, molto seguita, insomma. Mentre in fondo il progetto anche mussoliniano di creare proprio una categoria di canzoni, le canzoni del tempo di guerra si chiamavano nei documenti che circolavano fra il Minkulpop e i vari organismi del nuovo fascismo repubblicano, questa categoria di canzoni fallisce, venivano stimolati gli autori a comporne ma non riuscivano, mentre piuttosto che di una canzone del tempo di guerra, per accettare qualcosa di quel periodo bisogna parlare del tempo di guerra rimasto impigliato in modo involontario nelle canzoni. Certo, professore, la ringraziamo molto allora per questi chiarimenti e le auguriamo buona serata. Grazie, dottor Pesaro, e grazie a tutti quanti. Buona serata.